158. Pasta per pasticci di acci di carne. Farina grammi 250, burro grammi 70, sale un pizzico generoso, latte quanto basta per intriderla e ridurla a giusta consistenza. Non occorre lavorarla soverchiamente. Formatene un pane e lasciatelo in riposo per circa mezz'ora, involtato in un panno umido e infarinato. Questa dose potrà bastare per un pasticcio anche più grande di quello di cacciagione descritto alla ricetta numero 370. 159. Pasta per i pasticci di cacciagione. Per questa pasta vedi il pasticcio di lepre descritto al numero 372.